This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buonasera a tutti, mi sembra quasi strano trovarmi qua la sera, mi piace molto, sono sempre Babbo e questa è This is not an exit. Quindi siete di nuovo tra la fine degli 80 e l'inizio degli anni 90. Mi piace molto perché ho fatto radio per un sacco di anni, quale ho avuto sul personale, in questi anni qua a Bologna, giovedì sera. E dopo un paio d'anni a sabato, altro orario molto gradito, era pomeriggio, un sacco di gente mi ascoltava, sono tornato a giovedì sera alle 9, spero che continuate a seguirci, gentili ascoltatori. Siamo partiti più o meno sempre in tema, anzi sicuramente in tema dal punto di vista temporale, perché stiamo parlando di una musica, di un musicista che proprio nel 1991 arrivava qua in Europa, ma abbiamo un esperto qua con noi per cominciare in tromba, si dice così, la puntata, la stagione 2015-2016. Come passa il tempo, ma noi siamo indietro di 24 anni temporalmente. Non è vero, Antar? Buonasera ascoltatori di Radio Città del Capo, ciao Bab. Sì, è vero, stiamo parlando di una musicista somala, lei si chiama Mariam Mursal, che lei è nata nel 1950 e a causa della guerra civile che scoppiò nel dicembre 1990 e la fuga poi successiva il 26 gennaio del 91 del dittatore somalo Mohamed Siad Barre, che era al potere in Somalia dal 1969, ecco, e da quel periodo, da quel che lei poi dovette scappare, profuga, prima nei campi profughi in Etiopia, poi piano, perché la difficoltà grande di quelle persone era riuscire a uscire in modo legale, avere visti, le ambasciate non danno mai visti, nonostante tutte quelle politiche umanitarie, ma le ambasciate non si sa bene a cosa a volte abbiano a che fare spesso con questi paesi. Quindi lei è una donna musicista che purtroppo è dovuta fuggire dalla guerra civile che dal 90 al 91 e poi tuttora dura ancora così tanto tempo. Oh, Siete sempre in diretta qua agli studi, dagli studi di Radio Città del Capo 94.7 96.25. Siamo in compagnia di Antara, forse qualcuno di voi lo avrà letto. Avrà letto Timira, il suo libro scritto con Wu Minggu, è uscito qualche anno fa. Oppure qualcuno l'avrà visto in qualche posto qua a Bologna a leggere il libro a partecipare a tante altre iniziative. Antar viene esattamente dalle terre di Mariam Ursal, cioè dalla Somalia, una terra che sono parecchi anni, come prima accennava Antar, che è martoriata dalla guerra civile. Non diciamo che tutto cominciò in questo 91, in realtà poi ne parleremo diffusamente. La storia della dominazione di italiana, insomma, ha un retaggio molto lungo, però sicuramente il 91 fu un periodo esplosivo per la Somalia. Cade il dittatore e le bande cominciarono a fare una specie di carneficina, dico bene? Certo, sì. Dicevo che la guerra iniziò a dicembre del 90 con la fuga di Siad Barre, il dittatore, da Mogadiscio il 26 gennaio del 1991. Poi ci fu la battaglia per la capitale, Mogadiscio, la battaglia tra i signori della guerra, e quindi Mogadiscio fu divisa in due e la situazione divenne molto molto tragica, affinché poi le Nazioni Unite, gli Stati Uniti d'America decisero nel 91 di fare questa grande operazione che si chiamava Restore Hope, ridare speranza, per riportare la pace in Somalia e fare in modo di anche di fare state building, di ricostruire lo Stato. Purtroppo il progetto del Restore Hope non funzionò per questioni, c'erano 500.000 caschi blu di 35 nazionalità diverse, il problema è chi gestiva il comando. Gli italiani erano per trattare con i signori della guerra, gli americani volevano a tutti i costi raderli al suolo, e quindi c'era un po' una difficoltà oggettiva di come trattare. Poi, per dire, sulla questione degli americani, il rapporto con i somali, c'è quel film Black Hawk Down di Ridley Scott dove parla di questo famigerato signore della guerra che poi è morto nel 95, si chiama generale Farah Aidid. Quindi c'era un po' questa situazione. Diciamo che la Somalia è entrata uno dei primi paesi del terzo mondo col crollo del muro di Berlino, quindi con la fine della contrapposizione est-ovest, e a finire in quel gorgo di stati falliti, no? Adesso ne abbiamo tanti di una serie, dopo la Somalia abbiamo l'Iraq, abbiamo la Siria, abbiamo la Libia, quindi adesso siamo in buona compagnia. Quando scoppiò la guerra civile in Somalia in quell'epoca si parlava di libanizzazione della Somalia. Adesso, quando è scoppiata la guerra, e non è il caso poi che tutte ex colonie italiane, un po' queste, quindi vuol dire che i semi italiani hanno fruttato bene. E quindi quando è scoppiata adesso la guerra civile in Libia, si continua a parlare di somalizzazione della Libia. Quindi diciamo che questo almeno ci fa abbastanza contenti tutto sommato. E in questo anno Mariam Ursal comincia le sue peregrinazioni, lei è già famosissima in Somalia, comincia a scappare, lei e i figli, separata dal marito a causa della guerra civile, comincia una peregrinazione per la Somalia, arriva in Kenya, finché riesce ad arrivare in Etiopia e a questo punto a rifugiarsi all'ambasciata danese e a espatriare dopo 7 mesi di peregrinazioni in Danimarca. Yep. شيوعي ميلادي سا بدوي انت دا نيكو ديرن قلون كدا بالنايا دوب حدو سيداي وطالو سيداي معدن تو دنجيتو سيدو أريغو داريرو Sodo, honey, sodo. 21 e 28 minuti primi qua a This is not an exit, Radio Città del Capo. State ascoltando Mariam Mursal, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, lo ricordo, una cantante somala, ma questo disco è stato registrato qualche anno dopo la sua fuga dalla Somalia in fiamme, cioè il 1991. È stato registrato in Danimarca nel 1997 grazie a un cooperante che l'aveva ascoltata qualche anno prima in Somalia da una radio. Sì, il cooperante era un cooperante che si occupava di una ONG danese, che non erano tante di solito le ONG del nord Europa, perché tendenzialmente erano ONG meno corrotte rispetto alle ONG italiane, erano quelle peggiori in assoluto, e invece quelle danesi, norvegesi erano tendenzialmente molto oneste, e se non riuscivano a fare quello per la quale erano giù in Africa, in Somalia, quindi non so, il regime chiedeva delle prebende, voleva oliare la macchina, cose che gli italiani erano molto bravi a fare, e loro non si lasciavano, non facevano le cose che dovevano fare, se ne andavano. Quindi, e questa ONG di Soren Kaiser Jensen si occupava di potabilità, acque, falde acquifere, quindi si occupavano di un problema che in Somalia è molto sentito, perché è una zona tendenzialmente, è un territorio abbastanza arido. E lui, siccome amava molto la musica, amava anche molto la musica somala, e in quel periodo le radio somale davano molta musica somala, e una volta casualmente ascoltò Mariam Mursal per radio e si appassionò così tanto che se la registrò. Passarono alcuni anni, perché stiamo parlando, questi episodi tornano 85-86, passarono un po' di anni e succede che Marian, uscita faticosissimamente, perché Giorni, questo disco da cui noi prendiamo questi vari pezzi, parla dell'odissea, della fatica che lei ha avuto nell'uscire, quando un paese ti crolla, non hai più passaporto, sei l'ultimo di questa terra, tutti i paesi ti chiudono le frontiere, anche i paesi che fino a ieri, come l'Italia, era lì con la cooperazione, con Bettino Craxi, con tutti i soldi di Tangentò, che poi finiranno a essere i criminali di Tangentò, non ti danno più i visti, quindi sei proprio l'ultimo degli animali, dei cani randagi. E faticosissimamente, quando riesce poi tramite un campo profughi a Gibuti, lei riesce a chiedere riparo, perché era una donna famosa, chiede riparo all'ambasciata danese a Gibuti, e alla fine riesce ad andare in Danimarca, e lì, arrivata lì in un campo profughi, per tirare su il morale, per lei canta in questo campo profughi a 300 somali, anche loro in quella condizione faticosa di profughi in un paese lontano, freddo e non facile per molto spesso per dei profughi, la vita lontano da casa. E questo signore Soren Kaiser Jensen ascolta dal vivo lei e si ricorda questa cantante che lui ha amato molto in Somalia, e gli si avvicina dicendo che lui era un fan di Mariam Mursal, e chiede se lui potrebbe arrangiarle le canzoni che lei stava cantando per questi profughi in Danimarca nel 1997. E così uscì questo bellissimo disco di Mariam Mursal, di Journey, che parla dell'odissea di una donna, e di una donna somala che è dovuta scappare dal suo paese perché era in preda alla guerra civile, e ha trovato la possibilità, tramite la canzone, di riscattarsi. Thank you. Diego State ascoltando Marianne Mursal, che vuol dire, in somalo se non sbaglio, la Maria del diavolo? Sì, sì, Marianne, Maria, Mursal, perché spesso i somali, quando una persona è molto vivace, allora lo dicono, ah, tu assomigli come un diavolo, quindi Marianne Mursal, che poi è un po' un nome d'arte che si è presa. Questa, comunque, volevo dire due cose velocemente su questo pezzo che abbiamo sentito, che durava 11 minuti e 24. Hammar, che poi Hammar in arabo, Ahmar, vuol dire rosso, che era il vecchio nome che davano a Mogadiscio, la capitale. Perché c'era la storia, rosso perché sembra che alla nascita di questa città c'era di mezzo il dorso rosso di un cammello. E che era come un albino, e quindi visto in quella zona hanno detto, ah, questa è la zona così rossa, è tutta rossa, perché c'erano diversi cammelli che avevano questo dorso rosso, e allora l'avevano chiamata Hammar, Ahmar, che poi diventa Hammar, che poi la chiamano Mogadiscio, che anche Mogadiscio ha un suo nome particolare, perché viene dall'arabo, che Magda Shah, Magda vuol dire locanda del tè, perché le zone erano zone costiere, era zone di commercianti, era la zona che collegava l'India con lo Zanzibar, quindi era la zona dei chiodi di garofano, della cannella, era la zona del commercio, era la zona dove c'erano lingue che si intrecciavano, una convivenza, culture, religioni. Era una realtà con tutta quella del Swahili, del Sahel, Swahili vuol dire spiagge. Erano zone, diciamo, multiculturali, multireligiose e di buonissima convivenza. C'erano persiani, arabi, africani, indonesiani, perché pensate a Madagascar, che ha avuto una forte colonizzazione indonesiana. Quindi c'era un'apertura nel 600 che oggi purtroppo non c'è quasi più. Spesso, anche se vediamo questo mondo cambiare continuamente e forzatamente, poi se noi ci pensiamo veramente, quanti stranieri conosciamo noi nella nostra vita? Is manhokon Swahili igamadiman Swahili igamadiman Hal sana iyo dhow bilood ah, Allah waxaan نبت مهلينيا وحان دعاون كفابا دين مارد ميان دحتيجي هانوي إبوكتهاي ديبوين ميس ديبق حوتي نيمو دوب ساعدة بديد مرتاز ميان بابور كدعي وحان دعاون كفابا سمهول ميان دحتيجي مرتان شوبي دور كيلو ما إيصاد عشر عيقي وبطيو لالدهو Maria Mursala, This is not an exit, questa è Radio Città del Capo, siete in ascolto in modulazione di frequenza sui 94.7 oppure sui 96.25 se siete qua a Bologna ovviamente, o magari siete in streaming dal nostro sito rcdc.it. Ricordo anche che la nostra trasmissione ha un blog, si chiama thisisnotanexit.altervista.org. Finisco il fiato a dirlo tutto. Comunque questa sera mettiamo musica da un posto, da un continente, da una nazione di cui si parla molto poco. Lo facciamo spesso di girare per il mondo musicalmente, però effettivamente in Somalia non c'eravamo mai andati. Poi ho incontrato Antar e mi è venuta questa idea. Mi è venuta in mente anche perché poi le tragedie che ha vissuto la Somalia si ripercuotono tuttora e perché vedo con i miei occhi, leggo persone che vengono traghettate sulle nostre spiagge e poi faticosamente cercano di arrivare dove è arrivata anche Maria Mursal, in Danimarca o in Svezia, in Nord Europa. Sì, è vero, col fatto che c'è una guerra da oltre 25 anni, è un popolo prevalentemente diasporico, profugo, e anche adesso continuano a venire, tendono a non fermarsi in Italia, provano andare altrove, in Svezia, Danimarca, Olanda, e quindi è ancora un dolore molto presente. E le famiglie oggi, una classica famiglia somala, ha parenti che, cioè fratelli, non proprio fratelli, un fratello che vive in Danimarca, un altro che vive in Canada, un altro che vive in Australia, e è una cifra esorbitante poi trovarsi, spesso non si trovano al massimo per i funerali, quello è impossibile non evitare, quindi bisogna, al funerale almeno, ai matrimoni, ai funerali ci si va, però ecco sono le uniche, quindi è un popolo che è in guerra da così tanto tempo, di cui in Italia non se ne parla assolutamente, nonostante la Somalia abbia avuto la fortuna di essere un'ex colonia italiana, una delle tre colonie, e casualmente non so perché, però anche un'altra colonia italiana come la Libia è finita in vacca, un po' come la Somalia, quindi sarà la sindrome italianofona che porta, speriamo che almeno la primigenia perla dell'Africa, Eritrea, che è stata in assoluto la prima colonia, non finisca come la Somalia e la Libia, perché sennò vuol dire che questa sfiga italiana ci tocca, cioè è una situazione che si fa presente in diverse, poi un conto è la guerra civile in Somalia, che col Mar Rosso, finché sono così lontani, possano però avere una Somalia in Libia, avere di fronte casa, vuol dire che prima o poi, quando il fuoco si fa sempre più vicino, non è detto che prima o poi non venga anche a bruciarci la casa. Anche perché non è stata proprio una sfiga, è stata una guerra civile sanguinosa, al confronto della quale quella jugoslava ha fatto molti meno morti. Sì, sì, ha fatto meno morti. Era molto più vicina. Molto più vicina, e poi erano, diciamo anche la verità, erano anche bianchi, quindi a volte si fa più impressione quando sono bianchi a morire piuttosto che neri. I bianchi, uno si identifica più facilmente in Occidente se sono bianchi a morire, se sono neri già molto meno ci si identifica. No, però la cosa a volte che ti fa pensare è che oggi le guerre esplodono, però non si riescono più a fermare. E poi uno si dovesse pensare che in realtà poi non può pensare che tutti vengano qua perché nei loro paesi ci sono disastri ambientali, guerre civili e altre problematiche di questa natura, perché non è possibile. Però uno dice: ma se noi siamo una comunità umana, perché non si fa un embargo sulle armi? In realtà l'unico paese nel continente africano che produce armi è il Sudafrica, il resto sono tutte armi che vengono. Quindi vuol dire che la guerra è una rendita, rende bene, e le sfortune altrui sono morte tua, vita mia. Rischio però che se noi spingiamo continuamente su questa morte tua, vita mia, rischiamo che la morte mia diventa anche la tua morte. Quindi oggi forse sarebbe il caso di, più che aprire i confini, che è giusto aprire, però ripensare alla politica estera, e soprattutto a ripensare che le guerre sì ci sono, e in qualche modo bisognerebbe trovare delle forme reali, vere, sincere per farle fermare. Basterebbe in qualche modo fare veramente un embargo, però come tutte, se uno dice ma queste sono utopie, però se noi non pensiamo all'impossibile vediamo il possibile, che è sempre un mondo sempre più in guerra, sempre più in conflitto, come quello che sta adesso accadendo in Siria con lo sbarco reale delle truppe sul territorio dei russi. Quindi dicono che stia iniziando la terza guerra mondiale. Chi vivrà vedrà. Maria Mursale qui a This is not an exit, Radio Città del Capo. Un'altra cosa che volevo chiedere ad Antra, che mi interessava molto sapere, era qual era la condizione di un musicista, ma soprattutto di una cantante, quindi di un musicista donna di genere femminile in Somalia negli anni 80, e poi cosa è cambiato con la guerra civile e magari anche dopo la guerra civile. Ma quando, cioè, perché Marian è del 1950 e la storia della Somalia è una storia giovane, cioè un paese giovane. La Somalia diventa un paese indipendente nel 1960, primo luglio del 60, quindi Marian Mursal quando aveva 13 anni quando la Somalia è indipendente, quindi praticamente è una ragazzina, periodo dell'indipendenza. Come spesso è accaduto in tanti paesi africani, non solo in Somalia ma anche altri, molti paesi del Corno, come il Kenya o l'Etiopia, molti di questi paesi africani c'erano tantissime aspettative per l'indipendenza. E diciamo che le prime compagini governative erano tendenzialmente democratiche, comunque c'era multipartitismo, che era anche in parte una eredità, cioè le amministrazioni erano eredità del periodo coloniale, però diciamo che c'era anche le attese, le speranze dell'indipendenza avevano a che fare con la voglia di modernizzazione, di laicizzazione, quindi chiunque avesse una religione, perché spesso le città come Addis Abeba, come Mogadiscio, come Dar es Salaam in Tanzania o come Nairobi in Kenya, avevi la convivenza di diverse persone provenienti da diverse parti del mondo, potevi avere le comunità asiatiche come le comunità libanesi, come le comunità ebree, come i Soma, come i Somali in Kenya, come gli Oromo, cioè quindi c'era diverse popolazioni con diverse lingue, diverse religiose, c'era la possibilità, perché comunque l'indipendenza aveva a che fare con un tentativo di modernizzazione e poi soprattutto anche con un'aspettativa molto alta sull'indipendenza. Molto spesso è accaduto in tanti paesi africani, a metà degli anni 60, molti di questi paesi che avevano una compagine democratica poi vivono un colpo di Stato, nel 69 in Somalia, nel 70 con Idi Amin in Uganda, tanti colpi di Stato accadono in Africa nel metà degli anni 60 e questo radicalizza un po' il contesto, la situazione, vediamo al governo i militari che escono dalle caserme, fanno il levantamento, i colpi di Stato, prendono il potere e però anche lì, diciamo, la matrice anche di colpi era comunque socialisteggiante, quindi c'era sempre una dimensione laicista della compagine politica e sociale anche della Somalia. Quindi che cosa, questo come poi si riverbera nei confronti del mondo delle donne, del mondo femminile, cioè il fatto che le donne tendenzialmente hanno accesso alla scuola, hanno la possibilità di avere in base alle risorse, perché comunque la Somalia non era stato mai un paese ricco, un paese povero, però potevano andare a studiare e avevano la possibilità di accedere ai lavori, a mestieri diversi, se c'erano delle borse di studio per andare a studiare all'estero, su 10 borse 5 erano femminili, 5 date alle donne, 5 date alle donne. Quindi c'era un accesso, cioè le donne, c'erano movimenti soprattutto nel periodo dell'indipendenza, del governo democratico e anche diciamo del primo periodo di Siad Barre, che non tutto è stato negativo in questi 21 anni del governo di Siad Barre, c'erano associazioni femminili e poi c'era questo grande immane problema delle mutilazioni genitali femminili, quindi una lotta molto capillare su tutto il territorio, perché la Somalia non dobbiamo dimenticare che è un paese molto grande, due volte l'Italia è 322.000 km quadrati, la Somalia è di 657.000, quindi un paese molto arido, però doppio dell'Italia, grande, poco abitato, una densità abitativa molto molto poco, cioè 4, 5 o 6 abitanti per chilometro quadrato. Quindi, perché la popolazione adesso si stima che sia intorno ai 4-5 milioni di persone in Somalia. Quindi le donne studiavano, lavoravano e potevano permettersi di essere artiste. e quindi di avere anche una vita libera, cioè cantare spesso voleva dire fare vita notturna, quindi a volte loro anche bevevano, mangiavano il jat è una tipica erba che viene masticata in quelle zone dall'Etiopia all'Eritrea allo Yemen, cose varie, che è una specie di è una foglia che si mastica, che tende a tenerti sempre su in allegria, quindi cioè, facevano una vita d'artista, non, quindi però avevano spazio. Però la cosa interessante è che molte di queste musiciste, cantanti, erano anche era un po' come i canarini nelle miniere, avevano una sensibilità quando erano brave rispetto al contesto, perché comunque parlavano con diverse fasce sociali della, e coglievano ed erano spesso una di, anche lei come Sado Warsama Ali, un'altra cantante della sua età, 50 anche lei, loro riuscivano in qualche modo a raccontare della società somala quello che non andava bene. Cosa che ogni bravo artista dovrebbe continuare a fare, non è così semplice al giorno d'oggi. Certo, non è così semplice, quindi lei quindi aveva questa, quindi diciamo nel periodo del regime lei era una buona oppositrice facendo canzoni, cantando con la sua testimonianza di persona, quindi dicendo tutte le cose che non andavano bene. E quindi la condizione, diciamo, della donna in questo periodo qui era una condizione abbastanza libera. Che cosa ha trasformato in una condizione più difficile la condizione femminile? È successo che quando il regime diventa più aspro, si militarizza ulteriormente e i rapporti Amnesty parlano di carceri piene, di una situazione molto esasperata, noi vediamo che l'unica compagine oppositiva al regime di Siad Barre diventano i mulla, i religiosi. I religiosi che fanno opposizione dentro le moschee, nei sermoni del venerdì, perché loro sanno che il governo non gli scatenerebbe mai la guerra, perché sanno che il popolo somalo è abbastanza religioso all'epoca, musulmano, e non farebbero. Quindi. Però diciamo che la gente si avvicina alla religione proprio perché, diciamo, le aspettative della laicizzazione, della modernizzazione erano andate via via scemando e fallendo a causa del fatto che poi i regimi diventavano sempre più cleptocratici, sostanzialmente rubavano selvaggiamente e non rubavano poco, rubavano tutto, come spesso accade in tanti paesi africani, non solo, credo. E voi in Italia qualcosa, non solo in Italia ne sappiamo qualcosa, forse noi il fatto che forse abbiamo imparato da grandi maestri, no? Quindi allora i religiosi avevano la forza di potersi imporre come realtà etica, quindi criticare il regime. Però questo che cosa portò? Portò anche, come dire, a una radicalizzazione a una chiusura degli spazi libertari nei confronti delle donne. Quindi le donne dovevano coprirsi sempre di più, non dovevano uscire liberamente, le donne che cantavano erano viste male, erano viste come donne di facili costumi. E quindi se questa, anche perché poi c'era tutta un'altra questione, che in Somalia, come tanti altri paesi, non è l'Islam, questa reislamizzazione, era una reislamizzazione di un certo tipo, era l'islamizzazione wahhabita, quella che veniva dall'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita ha cominciato con i due shock petroliferi a colonizzare molti paesi africani che erano storicamente musulmani. Però questa branca dell'Islam estremamente rigida e faticosa che ha portato Boko Haram in Nigeria, Shabab in Somalia adesso, è tutta frutto del fatto che comunque noi siamo sempre stati più massicciamente colonizzati da questa, diciamo, branca dell'Islam, che è il wahhabismo, che era dovuto al fatto che molti nostri connazionali andavano a lavorare nei paesi arabi. E il primo shock è stato nel 73, il secondo è stato nel 79, e questi due shock, l'aumento del petrolio, quindi richiese a questi paesi molta manodopera, e molti somali andavano a lavorare, e noi vedevamo gradualmente i nostri padri, i nostri fratelli maggiori tornare sempre più con le barbe che crescevano via via, con questi vestiti lunghi, lunghi, sempre con questa, come dire, questa dimensione gradualmente che stava diventando sempre più di una religione, però che non era più la religione precedente che era una cosa privata, ma è sempre di più una religione che andava a invadere spazi sociali, spazi di libertà, spazi sul corpo delle donne, spazi proprio anche di studi, che cosa si poteva, quindi delle forme di censure, che cosa era buono, lo sport non era buono, la musica era la roba del diavolo, quindi diciamo società che tendenzialmente negli anni 60-70 erano società abbastanza aperte, che potevano andare avanti sempre più verso un'apertura di diritti sociali. Noi vediamo, grazie ai soldi e al consumismo dei sauditi, dell'Arabia Saudita, del Qatar, del Kuwait, una combinazione strana tra un purismo molto esasperato religioso e un eccesso di consumismo, e questo portò a una grandissima schizofrenia in molti nostri paesi, in molta gente. Quindi vediamo che per noi arrivavano i primi Sanio, le prime Mazda, le prime Honda, arrivavano dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi, dal Kuwait, dall'altra parte non arrivavano solo gli stereo oppure le macchine, arrivava questa ideologia aspra che oggi sta entrando gradualmente anche in Italia e in Europa, comprando squadre di calcio, Gucci, Valentino, e quindi quello che hanno fatto da noi 20 anni fa lo stanno facendo piano piano anche qua. Buon per voi. Siete sempre su Radio Città del Capo in compagnia di Marianne Mursal e di Antar. E ad Antar volevo chiedere un'altra cosa: cos'è stato questo periodo, questo inizio anni 90, quindi la transizione dalla guerra e poi gli anni immediatamente successivi? Allora, diciamo che Barre scappa il 26 gennaio del 91. Poi c'è tutta questa guerra dei signori, la prima fase è la guerra dei signori della guerra, i World Warlord li chiamano. Ce n'erano soprattutto due, di cui Ridley Scott ha fatto Black Hawk Down, e Ali Mahdi, che era, diciamo, quello meno armato, però anche lui un altro signore della guerra. Quindi per la contesa di Mogadiscio, quindi Mogadiscio la capitale viene divisa in due e la cosa si esaspera, fino a che Bush Senior decide in dicembre del 92, dopo un anno di guerra civile molto intensa, dove sono milioni e milioni, anche mia madre è stata una profuga, mi ricordo, questo è un inciso, mi ricordo che scappò dalla Somalia, anzi arrivò in Italia a maggio del 91 come profuga, perché mia madre era metà italiana, è morta nel 2010. E mi ricordo che la Radio Città del Capo all'epoca era Porta San Felice e c'era una giornalista di Radio Città del Capo, che adesso non c'è più, adesso lavora per Radio Onde Furlane, qui lei è una di Udine, Gabriella Mattioli, che mi ricordo mi parlava sempre di Michele Pompei, quindi quel, diciamo, il gruppo storico iniziale di Radio Città del Capo. E mi ricordo che mi fece una gran pressione perché glielo chiesi, e lei fece un'intervista a mia madre sfollata da Mogadiscio da poche ore, è arrivata appena appena da qualche ora in Kenya con un C-130, un aereo dell'esercito italiano, lei assieme ad altri, e quindi c'è questa cosa quando vengo a Radio Città del Capo. E io ho sempre chiesto a Gabriella: ma Gabriella, hai ritrovato quella casa? Perché è forte pensare, perché la condizione dei profughi è una condizione estremamente dolorosa, non solo lasci la vita che avevi condotto per lungo tempo, ma lasci anche un dolore di una terra che forse pensi di non poterla più rivedere. Quindi scusate questo piccolo inciso che mi riguardava, ma era anche un piccolo tributo che volevo fare alla storia affettiva che mi lega a questa radio da tanto tempo. E stiamo parlando del 91, questo episodio, Isabella Marincola e Gabriella Mattioli, Radio Città del Capo, quando era a Porta San Felice. E quindi Resto Robo, quindi 500.000, dicevo, 30 nazionalità diverse, non si capiva bene cosa dovevo fare, se disarmarli o farli la guerra. Gli americani erano per fargli la guerra, gli italiani volevano eventualmente trattare, disarmare. Comunque finì male soprattutto quando gli americani si ritirarono, perché erano, diciamo, il punto, erano più numerosi ed erano un po' quelli che guidavano questa missione di ridare speranza. Si ritirano perché un elicottero Black Hawk viene buttato giù a Mogadiscio e 17 marini americani vengono uccisi. Clinton decide nel 94 di ritirare gli americani e quindi automaticamente vengono ritirate tutte le altre truppe. In quell'epoca lì, a marzo del 94, muore una giornalista italiana e con il suo operatore Ilaria Alpi, Miran Rovatin. Quindi era proprio più o meno il periodo in cui il contingente internazionale si stava ritirando e quindi risprofonda in una guerra. Succede che purtroppo la Somalia, rispetto a molti paesi africani, era stato considerato per lungo tempo, pensate al testo di Anderson che dice le comunità immaginarie, avere una lingua avere una lingua in comune e avere una religione in comune per molti paesi africani, pensiamo solo alla Nigeria, quante lingue hanno e quante religioni convivono in quel grande paese. Ecco, la Somalia aveva la fortuna, considerata tanti, che da Mogadiscio fino a Djibouti, o Djibouti oggi l'ex cosiddetta Somalia francese, parla la lingua somala da Mogadiscio, e religione da Mogadiscio fino a Djibouti, musulmani, sunniti, non ci sono sciiti, non ci sono minoranze cristiane, quindi una religione e una lingua era una condizione molto buona per un paese africano che doveva costruire la sua statualità. Purtroppo questo non è stato sufficiente, la guerra non ha avuto pietà anche se c'erano queste due buone condizioni, e quindi che succede? Succede che l'unica realtà alla quale la popolazione si rifugia è la religione. l'unica rimasta, perché non siamo più somali, perché non abbiamo aggressioni esterne, è una mattanza tra fratelli. Ad esempio oggi, se tu chiedi a un somalo ma perché ci ammazziamo, non si sa perché la guerra civile, cioè non c'è una dimensione ideologica, non c'è il comunista e il fascista, non c'è una, è solo che ha preso il sopravvento la guerra. E allora nascono le corti islamiche, nelle fine 90 nascono le corti islamiche, che erano nate inizialmente, si facevano la sharia, erano nate per mettere un po' ordine nei quartieri di Mogadiscio, e questo piano piano si diffonde in diverse parti, in uno stato fallito, uno stato collassato, uno dei primi dopo il crollo del muro di Berlino, considerato anche un caso studio per i scienziati politici, la Somalia come caso di stato fallito, uno stato proprio. E quindi le corti islamiche hanno cercato di rimettere ordine a un disordine così esasperato, a un'anomia così capillare e redistribuito su tutto il territorio, e però con la sharia, quindi con la legge del taglione, quindi riportando in parte un'amministrazione della giustizia a dei parametri che erano abbastanza insoliti per un paese che aveva vissuto un passato moderno, diciamo, contemporaneo. Questo purtroppo poi non è sufficiente, quindi anche le corti islamiche si spaccano per questioni proprio di radicalismo, di radicalizzazione, e nascono i cosiddetti al-Shabaab. Al-Shabaab, che in arabo vuol dire gioventù, che adesso è proprio quella più legata alla formazione, al franchising del terrorismo internazionale di Al-Qaeda. Quindi Shabaab oggi sono estremamente attivi, non solo in Somalia ma in Kenya. Pensate che oggi Shabaab sta addestrando in Camerun, quindi ha dei rapporti con Boko Haram in Niger, quindi c'è proprio una internazionalizzazione, no? Che poi molti di questi militanti di Shabaab sono persone che hanno passaporti canadesi, perché chi si può permettere di muoversi tra i confini, tra un profugo somalo non riesce a fare 100 metri, è impossibile non avere un visto, e quasi, quindi queste sono persone che molto spesso hanno passaporti nordamericani, canadesi, australiani, europei, quindi si possono muovere, gente che ha fatto un periodo di praticantato in Siria, in Afghanistan, quindi ci sono una delle realtà più multiculturali che possa esistere. Quindi oggi diciamo che il fenomeno è questo, il fenomeno più grosso, il paese è ancora in guerra, non c'è uno Stato, non c'è una Somalia, ci sono diverse Somalie, c'è una Somalia del Sud, la ex Somalia italiana, quella che più o meno la chiama la regione del Benadi, che è ancora in questa situazione molto esasperata, c'è un Somaliland, la ex Somalia britannica, perché la Somalia, piccolo inciso, è stato uno dei paesi fortunatissimi che ha avuto tre colonialismi diversi, un francofono, anglofono e italianofono. Quindi la Somalia francese è un paese indipendente dal 75, quindi si chiama Djibouti, la Somaliland è un paese che è seceduto nel 1991, maggio del 91, e va per la sua strada. Poi c'è il cosiddetto Puntland, che è una zona molto interessante perché è la zona della cosiddetta pirateria. Tom Hanks ha fatto un film su Capitan Phillips, che è la storia della pirateria, e quindi quella anche. Quindi diciamo abbiamo diverse carte che ci stiamo giocando sullo scacchiere internazionale, che non è poco di questi tempi. E quindi si parla di diverse Somalie, e soprattutto la cosa più drammatica è che dovunque tu possa andare c'è una dimensione di insicurezza così capillare, così diffuso. La paura principale che può avere una persona è quella di essere uccisa. Pensate, un nostro caro amico somalo che ha vissuto tanti anni a Bologna, un bolognese cresciuto qui, suo padre venne via ai tempi di Siad Barre, è cresciuto qua, lui, suo fratello e sua sorella, lui si chiama Yusuf, che era ambasciatore somalo in Svizzera, andò poco tempo, qualche mese fa, in Somalia per una missione di pace. E mentre stava in un albergo, un camion bomba entrò dentro, lui ebbe la prontezza di scappare perché era un albergo con diversi piani, su per i piani si nascose, lo andarono a cercare, e lui sentiva che lo stavano cercando, ebbe la prontezza di chiamare sua moglie che viveva in Svizzera, chiedendo che se gli succedeva qualcosa di irreparabile di essere tumulato in Somalia, nella sua zona originaria, che è la Migiurtina, una zona storica della Somalia, come detto oggi Puntland, e suo figlio che vive qui a Bologna e partì con la Turkish Airlines, andò in Somalia per portare il cadavere di suo padre. Ecco, ancora adesso, questo è successo qualche mese fa, ancora adesso la vita, come spesso accade in tante parti del mondo, purtroppo vale molto poco, e questo fa male a tutti noi, perché è un caso nascere in Somalia, a Montreal, Vancouver o qua. Beh, ringrazio moltissimo Antara, abbiamo anche un po' sforato qua, This is not an exit. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre su queste frequenze, sempre alle 9, con un'altra puntata. Qua ci stanno aspettando al di fuori dello studio. Buona serata a tutti con i nostri programmi. E buonasera agli ascoltatori di Radio Città del Capo. Ringrazio tanto Babbe e vi auguro buon ascolto su Radio Città del Capo. Buonasera.